Euroreportage. Oltre Covid-19, il rilancio del turismo sostenibile in Europa. Di Anna Marino. L'impatto del coronavirus sul turismo europeo è stato devastante e i paesi europei ne portano ancora i segni, andando in ordine sparso anche con le chiusure nella fase 2 di alcuni ad altri paesi membri. Ma per ripartire bisogna puntare su un piano e obiettivi, grazie al turismo sociale e sostenibile europeo. E proprio per i cittadini europei ha sempre più importanza per il futuro una politica economica comune, sostenibile del turismo, perché bisogna andare incontro al loro desiderio di ripartire, ma anche ai loro nuovi timori nel viaggiare in Europa, come raccontano le persone che abbiamo intervistato in partenza in stazione centrale proprio il giorno dell'apertura delle regioni italiane in vista dell'estate. Ecco le voci dei viaggiatori. Per quest'estate no, non si viaggia. L'anno prossimo molto probabilmente sì, ma quest'anno siamo fermi. Ma visiteresti delle città europee in questo momento? Come ho sempre fatto negli anni, però è una cosa a cui si può rinunciare per il momento. Secondo te visitare le città europee in questo momento si può fare? È un po' un rischio, come comunque d'altronde da ogni parte. È un rischio andare in Europa come rimanere in Italia. Quest'estate andrete in vacanza, andrete all'estero, no, in Europa? No, purtroppo no. Puntiamo al viaggio di nozze adesso in Giappone, sperando di poter partire l'anno prossimo sempre. Però per quest'anno probabilmente qualche gita, escursione in montagna nelle zone del Bergamasca, ma... Secondo lei sarebbe meglio andare in una capitale europea, rimanere in Europa quest'estate oppure in Italia? Se si potesse viaggiare uscirei, andrei comunque anche a girare l'Europa, perché oltre a noi, cioè io ho in mente la Spagna, dove abita anche mia sorella, ha anche lei bisogno di ripartire secondo me, quindi se ci si aiuta è molto più bello secondo me, ecco. Il turismo sostenibile vuole dire ora anche sicurezza e attenzione alle precauzioni, ma soprattutto si tratta di un cambiamento netto di abitudini degli europei che cercano non solo le mete conosciute, ma anche le piccole località, e cambia anche l'industria turistica europea e la sua competitività, ora sempre più strettamente legata alla sua sostenibilità, così come la qualità della destinazione turistica è fortemente influenzata dal suo ambiente naturale, culturale, dalla sua integrazione con la comunità locale. E proprio con questi obiettivi l'Unione Europea finanzia il turismo sostenibile. Così spiega Luca Jaillet, presidente del CESE, Comitato Economico Sociale Europeo, gli step immediati e futuri per un cambiamento dell'Europa verso un turismo sociale sostenibile. La sostenibilità della politica turistica in Europa significa una linea generale sulla quale l'Europa sta lavorando da tempo, su un mercato che è importantissimo per l'economia europea, perché prima della pandemia i dati ci dicono che l'economia del turismo rappresenta dall'11 al 12% del PIL dell'Unione Europea, il 12% dell'occupazione e complessivamente oltre 3 milioni di imprese direttamente implicate, oltre ad un impatto estremamente significativo. Ora, intervenire su questo significava dargli più solidità economica, più sostenibilità sociale. Noi sappiamo che nel turismo forse è uno dei settori, assieme a quello dei lavori temporanei in agricoltura e nelle costruzioni, dove c'è il più alto tasso di lavori non garantiti, no? O lavori anche in nero purtroppo alcune volte, quindi bisogna anche aumentare la sostenibilità sociale di queste fasce importantissime di lavoratori e di operatori, e poi sostenibilità ecologica e ambientale sul lungo termine. Nell'era del turismo di massa, dei grandi spostamenti e anche delle grandi concentrazioni, come italiani pensiamo alle masse di persone su Venezia o su Firenze, giusto per citare due destinazioni tra le più gettonate, stava diventando ormai insostenibile anche per la tenuta stessa del sistema in quanto tale. Oltre l'over tourism di cui stiamo parlando, c'è stata anche un'emergenza che ha reso forse più importante il ripensare alla sostenibilità del turismo, e molto più chiave il tema dello spostamento. Insomma, sarà impossibile avere almeno per un po' le masse di prima, e comunque anche una ottimizzazione del traffico. E quale importanza ha soprattutto ora appunto una politica economica comune del turismo? Cioè, ci sono state e ci sono magari chiusure nella fase 2 dell'Europa di alcuni paesi membri che hanno avuto un impatto immediato, ma magari riguardano temporaneamente l'emergenza, e per il futuro come ci si dovrebbe comportare? Oggi parlare di una politica comune del turismo sia quantomeno prematuro. Oggi abbiamo un problema sostanziale di una gravità estrema di cui le massimi responsabili dell'Unione Europea non solo hanno preso coscienza, ma l'hanno messa al centro anche del pacchetto proposto dalla Commissione lo scorso 13 maggio in modo molto consistente. Crisi pandemica, che poi si traduce anche in crisi economica, ha fatto saltare l'intero settore. Le cifre che, come dire, sono ad oggi disponibili sono quantomeno spaventose, no? Un calo nel primo trimestre di oltre il 22% degli arrivi dei turisti internazionali. Si potrebbe ipotizzare, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, un calo annuale tra il 60 e l'80% a livello mondiale rispetto ai dati del 2019. L'OCSE prevede un calo nell'economia del turismo tra il 45 e il 70% e si stima ad oggi che le perdite dell'europeo saranno del 50% per hotel e ristoranti, del 70% per tour operator e agenzie viaggio e fino al 90% per crociere e compagnie aeree. Quindi stiamo parlando di una, come dire, di uno tsunami che rischia di travolgere interamente il sistema. Questo significherà, nelle stime, una perdita almeno di un terzo delle imprese attive nel settore del turismo, a qualunque livello, grandi ma soprattutto piccole, che sono quelli che pagheranno di più, e una perdita sui 27 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti nell'economia del turismo di quasi un terzo di lavoratori in questo anno. Quindi ad oggi stiamo parlando di come tamponare, prima della pandemia, l'85% degli europei, secondo i dati disponibili, faceva turismo all'interno dell'Unione Europea e quindi non sulle grandi distanze. Noi sappiamo che ad oggi i confini esterni dell'Unione Europea sono ancora chiusi e resteranno chiusi probabilmente ancora a lungo, mentre i confini interni, sia quelli tra le regioni dello stesso paese e quelli tra paesi, stanno progressivamente riaprendosi, anche se rimangono ancora molti squilibri. Uno dei risultati della pandemia è il distanziamento sociale obbligatorio, e quindi, come dire, se non ci si può andare non solo tutti a Venezia ma tutti sulle spiagge, forse bisognerà inventare rapidamente o sostenere o incoraggiare quello che una volta si chiamava il turismo minore, il lavorare su un turismo più breve, un turismo più di regioni confinanti, anche tra paesi vicini, sarà fondamentale, e questo, se ben gestito, può incrementare e rafforzare legami tra territori, tra comunità, legami sociali, la capacità di scoprire più attentamente culture altre e quindi rafforzare quel tessuto di valori e di anima europea, di sentimento europeo, che in questo momento è fondamentale. E confermano queste nuove tendenze richiesta di sicurezza ma anche di sostenibilità le testimonianze di imprenditori della ristorazione in Svizzera e in Spagna. A Ginevra, dove c'è stato un lockdown leggero, si sono comunque uniformati alle regole europee per accogliere i turisti, come spiega Dario Santauzzo di Darius Group, titolare di ristoranti italiani tipici con specialità siciliane in Svizzera. Noi abbiamo uno dei ristoranti che si trova in pieno centro storico di Ginevra. Purtroppo in questo momento non vediamo molto turismo, a differenza di prima, che il 30-40% della nostra clientela era praticamente veniva dall'estero. Prevediamo che ci sia un aumento di qua ai prossimi 10 giorni. Quanti turisti vedete europei in questo momento e quanti ne vedevate prima? Sì, noi siamo praticamente in vecchia città, lo chiamiamo il punto zero di Ginevra. La vecchia città che è sempre stata molto molto popolata, perché è il posto più visitato dal turista quando viene su Ginevra. La gente non viene, quindi si è spopolato per il momento. Voi come vi siete organizzate? Regole, distanziamenti? Le direttive erano abbastanza chiare. Abbiamo distanziamento di 2 metri da tavola a tavola. Dobbiamo mettere a disposizione del gel disinfettante per le mani, cliente personale, maschere a disposizione, che non sono per niente obbligatorie. Si è imparato a rendere il turismo più sostenibile a Ginevra, ma anche in Svizzera. Insomma, si può ripensare anche a un turismo europeo più sostenibile? Noi seguiamo molto quello che succede in Europa. Abbiamo avuto la fortuna di non essere confinati a Ginevra, però abbiamo visto cosa è successo in Francia, in Spagna, in Germania, in Italia, eccetera, eccetera, e ci siamo adeguati, ovvero abbiamo semplificato tutti i gesti e i movimenti interni del nostro ristorante, perché sappiamo che la gente ha comunque un po' paura. La rete dei social è importante. Noi abbiamo, a livello di riservazioni, che ci aiuta tanto, abbiamo la The Fork, si chiama da voi, da noi si chiama la Forchette, che dà possibilità a tutti quanti di poter riservare nel mondo praticamente dei ristoranti di tavoli disponibili e no che sono fatti al minuto, quindi quando il cliente va sul sito per riservare sa quanto i posti rimangono, quindi questo è molto facile per noi da gestire ormai. Abbiamo visto anche i cambiamenti che ci sono stati nell'ambiente con quei mesi che tutto è stato fermato. Comunque c'è il rispetto e cerchiamo di sprecare il meno possibile. E in Spagna, paese europeo tra i più colpiti insieme all'Italia, la voglia di ripresa è forte, anche se sono pochi i turisti rispetto alle masse di prima, come racconta Stefano Gallo, comproprietario di Illusione a Barcellona. Il nostro locale è situato nella zona alta di Barcellona, calcolando che Barcellona ha il mare da una parte e la montagna dall'altra, cresce in lungo, noi siamo nella zona alta. In questo momento turisti ovviamente non se ne vedono zero praticamente, cioè gli stranieri che ci sono nella città sono gli stranieri che già residono durante l'anno, quindi prima comunque avevamo come ristorante molto esposto anche su varie riviste perché dentro di un negozio di mobili, quindi molto particolare, i turisti venivano volentieri. 100 posti a sedere, di media facevamo più o meno nel weekend, nei giorni forti, comunque 250 persone, adesso parliamo di un afforo di 50 persone, quindi una quinta parte. Come vi siete organizzati? Come avete rispettato le regole, insomma, per la riapertura? Noi abbiamo un'entrata, abbiamo un piccolo giardino, diciamo, una terrazzina con delle piante dove appunto è l'accoglienza del locale. Il locale è molto ampio, calcola che la struttura era un garage una volta e quindi è stato adibito poi a ristorante e a negozio perché compartiamo lo spazio con il negozio Lucio, il ristorante Illusione. Già precedentemente i tavoli erano separati più o meno un paio di metri, adesso abbiamo ancora questo vantaggio. Ci sono anche stati degli aumenti di utilizzo dell'online, del digitale, per il delivery, peraltro, che magari rendono anche più sostenibile. Voi vi avvalete anche del digitale? Sì, ovvio, fa delivery in modo da portare la nostra offerta gastronomica anche al domicilio. La gente già un po' mentalizzata anche di questo cambio, non si organizza più grandi eventi di tante persone. Noi siamo un ristorante sempre molto attivo sulla sostenibilità, abbiamo in questo momento abbiamo anche installato un sistema di acqua ozonizzata per disinfettare in modo da stare un po' anche al passo con i tempi, quindi tutto insegna. Euro Reportage.